Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Se scegliamo la tariffa K e chiamiamo mezzanotte risparmiamo il 3%. Adesso ci sta perfettamente. Questo è in posizione non ascolto o ascolto? Così non ascolto, così ascolto. Ok, quindi adesso in questo momento...